Dove mia figlia, Andronico? Te stella vedi io stesso entrar le tende del Tartaro, la guidi vendetta o ambizion sale sul trono. E tu, codardo amante, che nemico potesti farla scender dal mio, dal proprio soglio, ad un altro non suo, non li sapesti attraversar la strada. Dissi, gridai, ma che non vada al padre, io non ascolta, onde le peso amante. Andiamo, ingiusto ciel, son disperato, io più figlia non ho. Non ho più trono, non son più padre, io Bajazet non sono.